Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana vi racconto come la tecnologia ci cambia la vita. 2024. L'appuntamento con internet e tecnologia. Sabato alle 15.30 su Radio 24. Disponibile anche in podcast su radio24.it.